Scene di panico tra gli elettori del Partito Democratico. In una lettera di 10 facciate, Walter Veltroni spiegherà come ritrovare la bussola che già lui aveva perso. Ancora tu,